partie parfaite fera que le mouvement éthique réversible dise que l'oppression engendre la haine. On les entend crier haine, elles menacent, elles attaquent, elles conspuent, elles invectives, elles tuent, elles crachent à la figure, elles les provoquent. Elles nagent, elles bafouent, elles s'en moquent, elles disent qu'elles ont la force du lion, la haine du tigre, la ruse du renard, la patience du chat, la persévérance du cheval et la ténacité du chacal. Allora, eccoci per la mini primer di oggi, è dedicata alla quinta, al quinto quaderno viola della colonna dei quaderni viola, e avremo al telefono con noi le due curatrici del quaderno, Sara Garbagnoli e Vicenza Perilli. Intanto, per dire, questo è il quinto perché ci sono stati quattro altri numeri precedenti, e ciascuno nella costruzione del filo delle discussioni sono state presentate ricerche femministe su diversi argomenti, sul lavoro, sul razzismo e il sessismo, sul lesbismo e sulla crisi. Il quinto torna intorno all'idea della donità o l'essere donna, come dal titolo si capisce, non si nasce donna. E dunque la questione di capire che le donne l'essere donna non è un dato naturale, ma una costruzione sociale e storica. E dunque si crea un rovesciamento di paradigma nella causa all'effetto. Le donne non sono così perché sono naturalmente donne, ma è il sistema degli uomini che crea una categoria donne che permette al gruppo sociale uomo di agire un'oppressione sull'altro gruppo. E dunque si tratta in questo quaderno di questa affermazione che è stata sviluppata e declinata da diverse pensatrici in Francia nelle anni 70, diciamo, in diversi ambiti di ricerca come l'antropologia, la sociologia, ma anche si potrebbe aggiungere la psicologia sociale o la pedagogia. E dunque, mi senti, Vicenza? Buonasera, ciao Silvi, ciao a tutte. Ciao e grazie di avere accettato di partecipare a questa trasmissione. E, no, grazie a voi. La prima domanda che ti farei è di dirci perché avete pensato che questo lavoro di traduzione, di presentazione, che è un lavoro grosso, perché sono dei testi e dei pensieri molto elaborati, perché avete pensato che si doveva fare in questo momento, in 2013, in Italia? Ma la prima risposta potrebbe così sembrare un po', se vuoi, banale. Semplicemente abbiamo pensato che nel 2013 fosse finalmente, insomma, l'ora di far conoscere questo femminismo materialista francese in Italia, perché di fatto nessuna delle autrici dei saggi, insomma, che presentiamo sono mai stati tradotti in Italia. Le traduzioni di saggi di queste autrici, che sono appunto Christine Delphi, Nicole Claude Mathieu, Paola Tabet, Monique Wittig e Colette Dioman, si possono proprio contare sulle dita di una mano, insomma, i pochi saggi che sono stati tradotti. Quindi già questo, insomma, come dire, potrebbe essere una prima risposta, no? Tradurre finalmente anche nel contesto italiano dei saggi di queste pensatrici. Venendo poi invece su un piano, insomma, più così teorico, ma anche di utilità politica del loro pensiero, abbiamo ritenuto che la loro analisi teorica e politica, visto che, come scriviamo nell'introduzione, è proprio un potente strumento, no, di denaturalizzazione di quelle che Colette Dioman definisce le evidenze, no, in primis l'evidenza del sesso, della sessualità e della razza, potessero proprio essere utilissime nel contesto italiano per far passare appunto un pensiero che è capace di restituire la dimensione materiale, storica, culturale e ideologica, no, delle divisioni dicotomiche e gerarchiche attraverso cui sono organizzate il sesso, la sessualità e la razza, no? Perché poi di fatto dicevi bene, no, che c'è questa messa in discussione della donnità, ma poi questo investe anche poi altre forme, no, di generalizzazione, come poi appunto vedremo, poi so che leggerete dei brani, e questo ci sembrava ancora più necessario per il contesto italiano, in cui da una parte, diciamo, appunto il femminismo materialista francese è poco noto, è dibattuto e tradotto, e dall'altra negli ultimi decenni appunto il ruolo di maggior rilievo è stato giocato invece da un femminismo, come sappiamo, no, della differenza, che ancora per certi aspetti continua diciamo a marcare una certa maniera di pensare, no, attraverso dei paradigmi che sono naturalistici ed essenzialisti, e questo lo vediamo continuamente, cioè penso anche a recentissimi dibattiti rispetto alla prostituzione oppure anche rispetto alla violenza sulle donne, no? Ci avviciniamo, insomma, al 25 novembre, e appunto una certa maniera anche di affrontare la questione della differenza, della violenza sulle donne si serve spesso di paradigmi naturalistici ed essenzialisti, c'è anche l'incapacità appunto di cogliere le implicazioni poi delle diverse forme di gerarchizzazione che sono all'opera, quindi ci sembrava insomma fondamentale introdurre in Italia il pensiero del femminismo materialista francese. Sì, anche perché la ricezione italiana di questi tipi insomma di interventi è veramente curiosa, volendo, nel senso che di queste 5 autrici di cui voi ci fornite questi testi in traduzione, di fatto Monique Wittig è stata abbastanza letta all'interno del movimento lesbico e anche in Italia, e per niente fuori da questo. Le altre appunto non sono state recepite, e invece in contemporanea ci siamo importate tutto il, non dico noi personalmente insomma, ma tutto il femminismo della differenza francese. Infatti quello che non ho specificato, che non è un problema appunto di quanto viene tradotto, perché in Italia poi si traduce tantissimo, cioè la carta insomma si spreca insomma, per essere un po' cattiva, quindi si è tradotto tantissimo già a partire appunto dalla fine degli anni 70, tutto il femminismo diciamo così differenzialista francese, da Edi Garay in poi, ma quasi nulla di queste autrici, cioè della Guillaumin sono solo tradotto un saggio qualche anno fa su studi culturali, di Paola Tabet, che tra l'altro appunto è italiana, quindi questo colpisce ancora di più. Certo, è stato pubblicato il volume La Grande Beffa, è stato pubblicato il volume che era una ricerca insomma italiana, la Pelle Giusta, ma appunto quelli che sono poi i suoi maggiori saggi teorici raccolti in questo volume pubblicato in Francia, tranne delle traduzioni parziali che sono uscite negli anni su DWF, non era mai stato tradotto praticamente nulla. Sì, quindi questo insomma colpisce, e quindi è una delle ragioni che poi ci ha spinto insomma a volerlo fare, per un pensiero radicale che pensiamo che veramente possa essere utile, offrire degli strumenti proprio per leggere la realtà proprio. E niente, okay. Non so se... Allora, guarda, dunque noi abbiamo pensato, per dire un po' di più su questa trasmissione, che tu ci racconta questa cosa, come non possiamo avere voi due insieme al telefono adesso, chiamiamo Sara, che Sara ci racconterà un po' di più sul contesto in cui questi testi sono stati scritti all'epoca. E poi ti riprendiamo, perché vorremmo entrare un po' di più dentro i testi e le pensatrici che avete presentato, e ti richiamiamo tra un po'. Grazie, a dopo. Continuo ad ascoltarvi. Ciao. Sì, sì, sì, rimani con noi, eh? Ciao. I would like to tell you there will not be any other way. I would like to tell you. Torniamo in diretta dal martedì autogestito da Femministe e Lesbiche durante lo spazio Mini Pimer, quest'oggi dedicato a Non si nasce donna, a cura di Vincenza Perilli e Sara Garbagnoli. Siamo al telefono con Sara per proseguire il discorso iniziato con Vincenza. Pronto? Buonasera Elena, buonasera Silvi, Vincenza e tutte quante. Dunque sì, abbiamo visto appena con Vincenza l'importanza di capire come si può discostruire, si dice, decostruire il sesso o la razza come un dato naturale, per avere una visione diciamo di sociale della costruzione di questi dati. E infatti questo è l'argomento che attraversa tutto il quaderno Viola, e io ti volevo chiedere in quale contesto nascono questo pensiero femminista materialista in Francia. Allora, giusto, aggiungo una parola sul perché abbiamo scelto queste pensatrici e queste autrici, e che in parte spiega anche diciamo l'effetto dirompente che loro hanno avuto nel contesto storico in cui si sono espresse. Come già diceva Vincenza, abbiamo scelto queste splendide, meravigliose pensatrici femministe per l'importanza teorica e politica della loro analisi. I loro interventi, a nostro avviso, costruiscono un potentissimo arsenale analitico per studiare, tanto negli anni 70 quando hanno cominciato a scrivere, quanto oggi, i processi di naturalizzazione o di razzializzazione dei gruppi sociali, ovvero sia le modalità attraverso le quali le differenze biologiche, in sé non significative socialmente, la forma di un organo sessuale o il colore della pelle, lo diventano significative socialmente e fanno, per esempio, della differenza sessuale l'origine, il fondamento naturale del posto che gli individui occupano in seno alla società. Questo già ci dice quello che è, diciamo, la rottura operata da questo approccio rispetto al contesto in cui è emerso. Posso citare Wittig per cercare di spiegare molto rapidamente che cosa si intende per approccio femminista materialista. Lei dice: un approccio femminista materialista all'oppressione delle donne distrugge l'idea che le donne siano un gruppo naturale. Effettivamente, se leggiamo Wittig, se leggiamo Guillaumin, se leggiamo Mathieu, Delphi, questa affermazione così radicale, così rivoluzionaria, esprime la specificità di questo gruppo di ricercatrici femministe, esprime quello che è il cuore politico analitico dei loro articoli, che sono stati pubblicati in alcuni numeri di una rivista molto importante, Question Féministe, che malgrado, diciamo, la brevità della sua vita, in realtà è uscita dal 77 all'81, ha prodotto una vera e propria rivoluzione politica e cognitiva nel campo intellettuale francese, e ha sollevato fortissime resistenze nel mondo francese e nel mondo anglosassone, perché, penso soprattutto agli Stati Uniti, la resistenza veniva da quella strana invenzione americana che è stata il French Feminism, che ha promosso dunque l'approccio sviluppato in Francia da scrittrici, filosofe quali Sixou, Irigaray o Kristeva, di promozione della differenza femminile come principio da valorizzare, come se fosse quello che in Francia dicevano e facevano le femministe. Inutile dire che Sixou e Kristeva nemmeno si definivano come femministe. Un altro tipo di opposizione incontrata dalle materialiste francesi fu quella delle femministe marxiste, che tacciarono le materialiste francesi di non aver compreso Marx o di usare in modo scorretto la terminologia marxiana. Effettivamente, quindi, le tesi principali del loro approccio, ovvero sia che le donne non sono un gruppo naturale, che il sesso è una categoria politica e che l'eterosessualità è un regime politico e epistemologico, rompono completamente con quello che era, diciamo, la visione promossa dal gruppo di psicanalisi politique e dal gruppo delle femministe marxiste ortodosse, diciamo così. Brava, grazie. Che bel resoconto. Ma posso chiederti una cosa? Secondo te che eredità ci hanno lasciato e qual è, appunto, l'importanza che ne possiamo avere oggi, e questa domanda è connessa al fatto anche di chiederti come è stato preso il quaderno, se l'avete, immagino che è uscito da un po' di mesi, noi siamo un po' in, diciamo, in ritardo in questo senso, se, anche come è stato, quando è stato presentato, insomma, che reazioni avete riscontrato, se erano misconosciute, se qualcuno invece le conosceva. Allora, guarda, onestamente, ovviamente sono estremamente parziale, quindi ritengo che l'eredità sia attualissima. Cioè, ogni volta che io rileggo questi testi ne scopro proprio l'importanza analitica, l'importanza politica, che sia per comprendere l'oppressione, diciamo, sessista, l'oppressione razzista, o le forme, diciamo, integrate e cooperanti delle dominazioni sessiste, di sessualità, di razza. Quindi, per quello che riguarda l'eredità, per me assolutamente parziale, è attualissima. E per quello che riguarda, diciamo, le reazioni in Italia, ancora non abbiamo fatto moltissime presentazioni, ma mi pare che si possa parlare di un piccolo fiammifero, in realtà, che comincia a portare una luce, a resuscitare dei testi che effettivamente suscitano un interesse e anche un po' di sorpresa, perché giovani attiviste o ricercatrici dicono: com'è possibile che questi testi non siano circolati, o non, o ci sia stata questa forma di impermeabilità, voglio dire, di testi così importanti. In realtà il quaderno è nato un po' per disperazione, per l'assenza in Italia di questa voce importante per noi del femminismo, e allo stesso tempo speriamo che questa piccola voce, questo piccolo grido susciti un eco di ritorno. Sì, anche perché sempre per questa storia della ricezione in Italia, alcune tematiche come appunto la decostruzione del genere e quindi l'analisi del genere come non naturale è arrivato come portato del queer nella riflessione italiana dalla Butler in poi, perché la parte francese, che ha una, come dire, una storicità ben più profonda, non è arrivata. Assolutamente, sì, c'è questo effetto strano di deformazione per cui questa decostruzione del genere in realtà attraversa l'oceano, arriva dagli Stati Uniti, quando i testi di Wittig, che dicevano assolutamente che il sesso è costruito socialmente da una categoria politica, sono stati scritti negli anni 70. Mi pare che valga la pena comunque far dialogare questi approcci, che sono diversi e non così incommensurabili. Certamente mi pare che l'approccio più diciamo l'apporto più importante del materialismo francese sia quello di insistere sulla forza delle strutture sociali, laddove forse l'approccio queer tende a dare più valore all'aspetto soggettivo e performativo che ognuno di noi, soprattutto se marginale, può operare nella ridefinizione di quelle che sono le identità di genere o di sessualità. Le femministe francesi insistono sulla forza del costruito, in realtà è talmente ben naturalizzato il sesso che effettivamente è naturale. Certo, quando si dice che qualcosa è costruito, loro dicono è costruito, ma è costruito in modo molto solido, quindi è estremamente difficile arrivare a decostruirlo. Questa mi sembra la principale, diciamo, differenza con l'interessante, importante, diciamo, approccio e contributo che arriva, diciamo, dai diversi pensieri queer statunitensi. Sì, allora andiamo un po' avanti dentro questo quaderno, e vogliamo parlare un po' una dopo l'altra delle pensatrici. Inizierei con la Christine Delphi. Dunque propongo un piccolo audio, vabbè, è solo per sentire la sua voce, per farla partecipare alla trasmissione. E l'inizio, vabbè, lei racconta un po' il piccolo inizio del suo percorso, così, e poi chiederemo a Vicenza di andare più avanti dentro il pensiero della Delphi. Va bene? Grazie. Quindi, Sara, ci risentiamo tra poco. Perfetto. fait un cursus de sociologie et les cours qui m'ont le plus intéressé n'étaient pas les cours des sociologues qui étaient des... Et ho fatto un cursus di sociologia e i corsi che mi hanno interessato di più non erano quelli dei sociologi come Aron o Bourdieu, ma quelli della sociologia sociale come Stotzel e Maisonneuve. Grands sociologues dont les noms sont maintenant passés dans l'histoire comme Raymond Aron, Pierre Bourdieu. Mais ceux de psicologie sociale avec Stutzel et Maisonneuve, parce que j'ai appris que perché ci ho imparato che tutto ciò che prendiamo dalle per delle reazioni naturali e che attribuiamo alla natura umana universale sono infatti delle reazioni culturali. E questo mi ha affascinata perché sono stata anche deliberata e a partire di questo momento ho guardato il mondo, le sue credenze e convenzioni attraverso questo prisma e mi ha dato della distanza e della deliberanza. Per esempio, quando ho saputo che anche delle cose come le onomatope, che dovrebbe essere condivisa da tutto il genere umano, sono anche convenzioni di linguaggio. E beh, a quel momento là mi sono allenata e per esempio invece di fare Atchoum ho iniziato a fare Chuma. Pas du premier coup, je vous préviens. Et alors, à cette époque, e a quest'epoca la cosa che chiamavo relativismo era più di un prisma, era un'arma e quest'arma ha potuto fare che ho potuto resistere alle pressioni e alle sanzioni. E anche a quel periodo che ho letto Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. E devo dire qualcosa perché, come molto, quando l'ho letto, non gli ho dato molto giustizia. Nel senso che trovavo che lei non andava abbastanza lontano. Che j'ai fait plus tard dédicacé par ho fatto dedicare, vabbè, questo passo. Je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. Et ce n'est qu'en le relisant. E solo quando l'ho riletto molto anni dopo che mi sono accorta che molte cose che pensavo essere le mie riflessioni venivano di questo libro e che il sindrome secondo sesso era molto presente, cioè che lei, come anche molte donne l'hanno detto, la Beauvoir aveva messo delle parole su quello che vivevamo. E questo è molto importante perché spesso non avevamo le parole per dirlo. E stiamo ritornando con Vincenza. Ci senti? Sì, sono qui. Ok, dunque questo era un piccolo pezzo di una conferenza che ha dato la Delphi sulla sua vita di sociologa. E, ci puoi un po' introdurre la pensatrice e il testo che avete scelto? Sì, dunque di Delphi abbiamo scelto nella sua ampia produzione un testo sul genere che ci sembrava particolarmente interessante, non è mai stato tradotto in Italia, ma presentare Delphi in due parole è abbastanza difficile, perché si è mossa su diversi assi di riflessione. I principali li riassume lei stessa nell'introduzione a due volumi mai tradotti in italiano, l'enemy principal, e sono la critica della storicismo, la critica naturalismo e la critica delle teorie cosiddette globali. E, in Italia probabilmente il saggio, insomma, più noto, anche perché è stato tradotto negli anni 70, è appunto Il nemico principale, che è un testo molto interessante, è stato molto discusso all'epoca, in cui Delphi definisce appunto il patriarcato come nemico principale e lo definisce come un sistema sistema, no? Un sistema che non è riducibile, diciamo, al capitalismo e che subordina le donne agli uomini. Cosa importante, lei sottolineava in questo testo che questo non si giustifica in base a una presunta natura biologica, ma dallo stato di oppressione e di sfruttamento che fa delle donne una classe. Cioè, ovviamente qui il concetto di classe non era, insomma, meramente il concetto di classe così come lo conosciamo dall'analisi marxista, ma per Delphi, così come anche per altre femministe materialiste, il concetto di classe, cioè definire le donne una classe, rispondeva proprio alle esigenze di storicità e di antinaturalismo, no? Che caratterizzano appunto il loro approccio. E quindi questo era stato appunto il testo, diciamo, uno dei primi testi, il testo più conosciuto di Delphi, dibattuto negli ambienti femministi. Siamo nel 1970, tra l'altro appunto Delphi era proprio impegnata politicamente, era stata tra le fondatrici uno dei primissimi gruppi femministi in Francia, che saranno poi, insomma, che sarà poi uno dei gruppi, insomma, le donne raccolte intorno a questo gruppo saranno quelle che proprio daranno vita, insomma, al cosiddetto movimento di liberazione delle donne in Francia. Al Delphi si deve in un certo senso anche la definizione di femminismo materialista, perché un saggio del 65 si intitolava appunto "Per un femminismo materialista", dove appunto lei mette proprio al centro il concetto di oppressione, per un femminismo inteso proprio come movimento sociale e di rivolta. E qui appunto c'è tutta una critica anche proprio a termini quali condizione della donna, no? Che tradiscono appunto un approccio di tipo naturalista, e invece per lei il concetto di oppressione rinvia una spiegazione e una situazione politica che dunque può essere modificabile. Poi ha lavorato tantissimo sulla denuncia di quella appunto che definisce ideologia della differenza, e quindi un'aperta polemica con il femminismo differenzialista francese, come abbiamo visto, ideologia della differenza che secondo Delphi serve a giustificare l'ineguaglianza tra gruppi, e non soltanto i gruppi detti di sesso, perché anche altra questione, insomma, importante anche da sottolineare parlando di Delphi, che appunto la sua riflessione appunto comincia sulla questione appunto del sesso e del genere, poi si allarga a tutte le relazioni esistenti tra i diversi sistemi di dominio e assoggettamento, quindi sessismo, razzismo, classismo, eterosessismo, e lei proprio individua il carattere comune tra questi sistemi proprio nel processo, diciamo, di naturalizzazione, no? Che mira a classificare e dominare gli altri, cosa appunto che poi condivide anche con altre femministe materialiste. Insomma, basti pensare appunto al lavoro poi di Colette Diomanno su sesso e razza. E niente, sono stato un po' breve, ma sì, ma è molto difficile. Faccio fatica poi a valutare, insomma, il tempo che abbiamo. Quindi, insomma, spero di essere riuscita, insomma, un po' a delineare gli assi principali di riflessione di Delphi. E invece, come ti dicevo, il testo che abbiamo scelto di tradurre è "Pensare il genere, problemi e resistenze", che è un testo appunto pubblicato per la prima volta nel 91, e poi appunto ripubblicato per questo nel 2001 in questa raccolta pubblicata in Francia, ed è un testo che ci è sembrato particolarmente interessante perché lei sviluppa tutta una riflessione intorno alla questione che la gerarchia è necessariamente anteriore alla divisione, e questo è un punto punto particolarmente importante, lei in questo saggio lo sviluppa rispetto appunto alla questione sesso-genere, ma come poi spieghiamo appunto anche nell'introduzione scritta con Sara volumetto, poi questa è la questione caratterizza tutto il femminismo materialista francese, cioè che è un pensiero appunto che ci permette la compressione del rovesciamento da causa ad effetto attraverso cui operano le diverse forme di oppressione, cioè detto in altri termini, ciò che è socialmente appreso come origine dell'oppressione, quindi la forma di un sesso, il colore della pelle e così via, né in realtà l'effetto, cioè il sesso e la razza sono, diciamo, non sono un'essenza, cioè delle proprietà inerenti ai soggetti che ne esprimerebbe la natura, ma un marchio, no? Quindi socialmente sì, pertinente ed efficace, perché cristallizza dei preesistenti rapporti di dominazione e di sfruttamento. Esatto. Infatti, se ho dimenticato qualcosa, chiedimi pure. No, quando parlavi mi dicevo, e poi si vede con Nicole Claude Mathieu che lei ha nel suo lavoro di antropologa ha fatto vedere come non è come si applica, perché non è un'applicazione, ma come comunque questa cosa gioca dentro un lavoro di antropologia, quando per esempio si prende come un lei dice, infatti Valeria Ribeiro Cocros-Hals, che ha curato la presentazione del testo, sì, che ne fa poi comunque c'è la sua presentazione in una logica molto efficace. E Nicole Claude Mathieu dice non ci sono dati in sé, infatti questo è che il fatto, sì, che per esempio nell'antropologia fino a lei, perché penso che lei veramente ha fatto cambiare le cose, l'uomo c'è una un'equivalenza tra uomo e essere umano, no? Dentro, sì. E dunque lei fa saltare questa cosa che chiama androcentrismo, okay, dicendo che facendo questo l'antropologia porta a considerare le donne con un soggetto particolare, specifici, mentre gli uomini, sì, sono soggetti universali. Certo. E dunque questo nella lettura sia quando ci si studiano altre società, questa cosa comunque mette una pronta molto molto che comunque mette un velo sulla conoscenza di alcune società, perché comunque crea un'invisibilità sia delle donne e vieta la possibilità di capire bene i rapporti che esistono tra i rapporti di sesso, se ho certo capito bene, no? Direi, sì, che certo, è un po' questo che è sviluppato. E Valeria infatti racconta come questa cosa, per esempio, quando si legge le violenze maschile sulle donne, è molto importante, perché infatti non c'è lo stesso la stessa conoscenza di un fatto quando sei dominanti o dominati, e quando sei certo chi detiene il potere. E così, dunque questo per su quell'onda di adesso, dunque ci passo al testo di Nicole Claude Mathieu, che dunque si chiama Sesso e genere, e in cui lei riprende delle cose che non lo so sono comunque abbastanza conosciute, riprende come il sesso riguarda diciamo tutta la biologia, e il genere diciamo la costruzione sociale che è stata fatta a partire del il sesso biologico. C'è qualcosa che mi è piaciuto anche molto, perché poi va oltre su come questa cosa viene anche applicata alla sessualità, E per esempio dice: la tendenza di lesbismo politico vicina a questa corrente considerano l'eterosessualità non come una variante del comportamento sessuale, ma come il sistema che fonda la definizione stessa di donne attraverso una relazione obbligatoria di dipendenza dagli uomini. Se Simone de Beauvoir aveva affermato non si nasce donna, lo si diventa, Monivittig nel 1980 si esprimeva così: donna ha un senso solo nei sistemi simbolici ed economici eterosessuali, le lesbiche non sono donne. E si vede anche lì che comunque l'argomento prende importanza quando dobbiamo leggere l'attualità in cui viviamo. E lo trovo anche abbastanza importante questo modo che c'ha sempre comunque Nicole Claude Mathieu di rimettere gli argomenti sociali dell'attualità, considerando un po' questa lettura materialista e di costruzione, perché per esempio quando si tratta di parità, cioè rimette in gioco, ma quando parliamo di parità, del fatto che chiediamo che c'è lo stesso numero di donne e di uomini al potere, ma questo, se non è un fatto eterosessuale di pensare che l'equilibrio deve essere ripresentato da un uomo e da una donna, se non è una cosa che abbiamo dentro, di pensare che c'è una complementarità quasi naturale di questi due sessi, e dunque vabbè, è questo che volevo dire a partire del testo di Claude Mathieu. Facciamo un po' un brano musicale. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne... Abbiamo cambiato idea, ve lo facciamo sentire tra due minuti il testo musicale. Vincenza, sei ancora qua? Sì. E niente, non so se volevi aggiungere qualcosa sulla Mathieu, e poi ti chiediamo anche come far a riperire il libro, e poi chiudiamo con Sara, perché siamo in realtà molto avanti con i tempi. Sì, no, infatti ho visto. Purtroppo, come sapete, il Quaderno Viola non è reperibile, diciamo, nel normale circuito delle librerie, quindi insomma, per chi è a Roma si può andare direttamente alla libreria Alegre, appunto visitare il sito di Alegre. C'è una pagina appunto sui Quaderni Viola, quindi si può acquistare anche online, o mettendosi appunto direttamente in contatto nell'email che c'è nel sito con l'editore, perché purtroppo appunto tranne alcune librerie di movimento i Quaderni Viola non sono distribuiti nel normale circuito. Bene, ricordiamo che la libreria Allegre, per chi appunto vivesse a Roma, si trova al Pigneto, alla circonvallazione casilina, la vedete dal lato dell'isola pedonale, comunque sulla circonvallazione casilina, adesso il civico non lo ricordo, ma comunque anche a me in questo momento mi sfugge, ma comunque sul sito... Sì, esatto, sul sito c'è l'indirizzo completo. Allora, vogliamo ritornare con Sara, che ci parlerà un po' della Guillaume e della Wittig prima di salutarci, e poi comunque faremo un'altra trasmissione perché è troppo ricca, troppo ricco questo Quaderno Viola. E quindi grazie. Ti ringraziamo, Vincenza, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, ciao. Elle a eu raison, eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. presse à Candy en colère, leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventeur, qu'il a volé ses toits à dents, et veut savoir sa fanfaronne, il dit mais non papa c'est moi, et d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois, alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut, et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Elle va dire quand je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire. Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eva leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Eve. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrit ses bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Eve. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Ancora in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, dal martedì autogestito da femministe e lesbiche, ancora presentando Non si nasce donna a cura di Vincenza Perilli e Sara Garbagnoli, è il quinto quaderno viola e appunto questo è dedicato al femminismo materialista francese. Abbiamo di nuovo con noi Sara, pronto, ci senti? Eccoci, buonasera di nuovo a tutte. Per cominciare a dire almeno due parole insomma su alcune delle autrici presentate in questo quaderno che non abbiamo ancora trattato, con la promessa di tornarci perché sì, il tempo è a corso via veloce. Felicissima di ritornare a parlare con voi di queste autrici strepitose. Molto rapidamente mi pare che si possa dire che gli scritti di Monique Wittig e di Colette Guillaumin si possano leggere senza soluzione di continuità. Guillaumin scrive all'inizio degli anni 70 l'ideologia razzista, raccoglie agli inizi degli anni 90 sotto il titolo Sexe, Race et Pratique du Pouvoir, sesso, razza e pratica del potere, gli articoli scritti su questioni femministe a partire dalla fine degli anni 70. Wittig pubblica all'inizio degli anni 90 The Straight Mind and Other Essays, scusate la pronuncia un po' franco-italiana, il pensiero straight e altri saggi. Mi pare che letti insieme questi scritti possano esprimere appieno quello che è l'approccio femminista materialista. L'abbiamo detto, le donne non sono un gruppo naturale, ma sono una classe, una comunità di oppressione, tra l'altro attraversata da altre forme di gerarchizzazione dello spazio sociale, cioè la classe sociale, la razza, la sessualità, l'età, la nazionalità, eccetera. Un approccio materialista ci dice che il sesso è una categoria politica, è un marchio, un feticcio che cela e nasconde preesistenti rapporti sociali di oppressione, e l'eterosessualità, come diceva Silvi prima, è un regime politico e epistemologico. Molto rapidamente per chiudere, leggendo Wittig e Guillaumin si vede bene come l'oppressione delle donne operi in modo inestricabile come insieme un fatto materiale e un fatto simbolico. Dal punto di vista materiale si tratta, secondo Guillaumin, dell'appropriazione della classe delle donne da parte della classe degli uomini, e i mezzi concreti dell'appropriazione sono molteplici. Guillaumin cita il confino spaziale, l'appropriazione del tempo, il carico e la gestione degli individui più deboli del gruppo familiare, il mercato del lavoro. Monique Wittig parla del linguaggio, per esempio fatto di parole che uccidono, che ci obbliga per esempio a parlare in termini di bicategorizzazione sessuale. Parla della doxa scientifica, della doxa psicanalitica, che si fondano sulla differenza dei sessi come fosse una differenza naturale, o della cosmologizzazione della differenza sessuale per capire come matrice, per capire tutti i rapporti di dominazione. Ma la cosa mi sembra molto interessante che loro dicono è che l'oppressione delle donne è un fatto materiale ma un fatto simbolico, ovvero sia opera anche attraverso la produzione della credenza che l'ordine sessuale è un ordine naturale, un ordine trascendente. Modiquiti che chiama il pensiero straight quello che fa della differenza dei sessi una differenza di natura. Chiuderei citando questo suo paragrafetto che dice: i sessi, il genere, la differenza sessuale, l'uomo, la donna, la razza, il nero, il bianco, la natura sono al cuore di ciò che ho chiamato pensiero straight. Tali parametri hanno formato i nostri concetti, le nostre leggi, le nostre istituzioni, la nostra storia, le nostre culture. E appunto queste femministe ci invitano a rivoluzionare le nostre categorie di pensiero e di azione per distruggere la pertinenza delle classificazioni di classe, di sesso e di razza, che sono classificazioni classiste, sessiste e razziste. Noi ti ringraziamo per una sintesi che oserei dire è perfetta e anche per una chiarezza espositiva che per testi così ampi, che quindi necessariamente diventano complessi nel sintetizzarli, insomma, è stata veramente notevole. Giusto perché non ci dimentichiamo, insomma, esiste una quinta pensatrice di cui non abbiamo parlato, che è Paola Tabet, appunto, e in particolare, diciamo, di Paola Tabet ricordiamo la grande beffa, e cioè, come dire, l'imbroglio storico. Leggo direttamente dalla presentazione di Maria Gabriella Darré: per avere prestigio sociale, nome, rispetto, ricchezze, anche solo per sopravvivere, le donne sono state costrette, non potendo accedervi in quanto individui, a scambiare con l'altro sesso le specifiche qualità del loro corpo, sessualità e capacità riproduttiva. Ovviamente siamo già fuori tempo, quindi non dirò altro di Paola Tabet, ma è uno dei motivi per cui assolutamente torneremo. Dobbiamo riaprire questi microfoni. Sì, io voglio dedicare questa trasmissione a Nicole Colmazio, che sta male di salute e che anche se sta male di salute, come c'è chi l'ha presentato, scrive: ciò che caratterizza il lavoro della Mathieu è il suo ritmo. Allora si può dire che lei continua nel suo ritmo e anche male continua a pensare, a scrivere e a sviluppare analisi. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ringraziamo tutte le ascoltatrici. Volevamo anche ricordare che esiste una tradizione, diciamo, da compagna battagliera non ufficiale di questo stesso saggio che hai tradotto tu, che gira da un po' tra le compagne, ed è Daria che la fece tanti anni fa, ma chiaramente lo sappiamo, le cose sono carsiche, non tutte magari ne hanno avuto la possibilità di leggerlo, e ringraziamo anche te per averlo ritradotto e in questo caso pubblicato. Ma ci tenevamo, insomma, a dirlo, perché io l'ho letto tempo fa, tradotto, certo. Perché mi era arrivato da altre fonti, ed è sul blog, fra l'altro, del martedì. E questo è il Quaderno Viola, invece, che raccoglie anche tutti gli altri testi. Non si nasce donna, sicuramente proveremo anche a farne un'altra puntata, perché è veramente molto denso e appunto un ciclo, perché ci racconta anche e ci dà degli strumenti per la nostra lotta, diciamo, quotidiana, direi, e strumenti molto importanti di cui abbiamo già detto. Ringraziamo Vincenzo e Sara per essere state con noi e grazie a voi. Buona serata a tutte. Ciao, ciao, grazie. Buona festa, grazie. Ciao.